Non riesco a capire come mai nell'ultima edizione politicamente rivista di Miss Italia non siano state queste le parole che abbiano detto ai microfoni di fronte alle telecamere le ragazze. Sarebbero state subito impalmate e celebrate come le rappresentanti della donna ideale. Siete in qualche maniera d'accordo con quello che dico, ma non può essere altrimenti. Ne ho la certezza matematica che la maggior parte degli italiani sia perfettamente d'accordo con quello che dico, uomini o donne che siano. Perché non tirate fuori quello che è il vostro più profondo convincimento? Perché non mi dite che ho ragione? Perché vi trincerate ancora dietro queste ipocrite, false prese di posizione esteriori, puramente ideologiche, per cercare di essere al passo coi tempi, per dire che anche voi volete che le donne siano emancipate, abbiano pieno diritto di manifestare la loro indipendenza, la loro possibilità di provarsi anche in altri campi che non siano quelli dell'accudimento dei figli, della pulizia della casa, delle pantofole del marito. Cosimo, buongiorno. Buongiorno a lei, salve, lieto di sentirla e i radioascoltatori. Vogliamo avere il coraggio questa mattina di dire esattamente come la pensiamo? Sì, certamente. No, naturalmente quello che è stata l'introduzione della sua trasmissione un pochettino rappresenta l'immagine teorica di quella che poi un uomo veramente vorrebbe trovare al rientro a casa sua. Almeno in quello spazio di tempo, sì. Perché tutti fine... fanno finta invece che no, assolutamente, vogliono tornare a casa, impossessarsi loro dello spazzolone, pulire i pavimenti, vogliono che la donna stia fuori a lavorare, vogliono occuparsi loro dei figli, hanno queste innaturali, completamente abnormi, offese a quello che è l'ordine delle cose. Che comunque in tutto in medias stat virtus, cioè non tutto purtroppo può essere così come vorremmo che fosse. E dobbiamo dire che la pensiamo anche noi in maniera diversa, perché sennò altrimenti ci brucerebbero nelle piazze, ma in realtà siamo tutti d'accordo, debba essere così. Poi è anche una visione romantica, quella che lei ha introdotto nella trasmissione di oggi, è una visione un po' romantica di quello che è l'arrivo dell'uomo in casa. Però pensi che piacevole, che bello tornare a casa, trovare una persona inginocchiata che ci infila le pantofole con la bibita calda, il caminetto acceso, tutto silenzio, i bambini narcotizzati a letto come se non ci fossero. Caterina, cosa ne pensa una donna? Buongiorno, io per la mia età diciamo che ho superato parecchi di questi problemi, però se mi guardo intorno anche con le nuore, con i ragazzi che conosco, sarebbe una bella e pia illusione quello che voi state dicendo. Sarebbe bello, però lei ammette. Sarebbe bellissimo, sì. Lei pensa che bello, delle... un uomo torna a casa. Lei può infilargli le pantofole. Comunque. Pensi la riconoscenza che vedrebbe. No. Quello non mi piacerebbe comunque, mi piacerebbe un po' più di serenità. Ma non è un gesto d'affetto, un gesto di amore, di sottomissione, infilare le pantofole a un uomo. Di sottomissione mai. Ma no, sottomissione piacevole, nel giusto riconoscimento del suo ruolo di donna, quindi silenziosa, sottomessa, che mette le pantofole. Assolutamente. Bene, mai, Caterina, è d'accordo, sono contento di trovarla d'accordo. Monica. Sì. Dica il suo punto di vista su questa meravigliosa illusione, questa utopia che stiamo realizzando questa mattina. Ma sinceramente, calcolando che la maggior parte delle donne lavorano, quindi che hanno purtroppo sì, quello è il problema. Fondamentalmente lo invece stesso invece che stare a casa, come sarebbe esatto. Giusto. Vabbè, ma perché biologicamente la donna deve stare a casa, che deve stare a lavorare. Se magari l'uomo riuscisse a guadagnare guadagnava forse 20 anni fa. Ma se le donne stessero a casa e facessero della sana economia domestica, cucinando, lavando loro, facendo loro i lavori in casa, non spenderebbero tanti soldi e basterebbe uno stipendio. Non è d'accordo? No, lo so, però è un problema di contingenza. Beh, Monica, per confermare quello che dico corrisponde a realtà, vi rivelo perché ho fatto questo tipo di apertura. Ho fatto questo tipo di apertura che sembra paradossale, già vedo le persone che protestano, infame, dovrebbero ucciderti, cacciarti, ti denunciamo al Tribunale Supremo della Boldrini, non so esattamente cosa vogliano farmi, ma io non dico nulla di diverso a quello che pensa la maggior parte degli italiani. Perché l'Agenzia delle Nazioni Unite che si occupa di diritti delle donne, che è un'agenzia seria, e pensate se non se ne occupano loro di diritti delle donne, ha voluto fare un esperimento. Ha digitato nel motore di ricerca Google, che è quello che è quello naturalmente più usato da tutto il mondo, la parola cosa devono fare le donne. Il browser Chrome di Google ha questa funzione che si chiama l'autocompletamento, l'autofill, che permette che voi appena scrivete una domanda, una frase, subito ve la completa con quello che statisticamente è il maggior numero di richieste vengono fatte su Google. Se ad esempio scrivo sul motore di ricerca le donne devono, naturalmente Google subito fa vedere quello che è stato la maggior parte statisticamente delle risposte che hanno dato gli italiani quando usano il motore di ricerca. E faccio un esempio. Se io digito il mio nome Gianluca Nicoletti, la prima richiesta è moglie di Gianluca Nicoletti. Evidentemente sono tutti interessati, secondo me non ne parlo mai, ne parlo poco, non la cito come il talento colombo, di sapere chi sia mia moglie. Se io faccio le donne devono sul motore di ricerca Google, viene fuori, e questo, guardate, non siate ipocriti, non siate falsi, non fate i carini, non fate i buonini, non fate i politicamente corretti, questo è quello che esattamente statisticamente gli italiani vogliono. Le donne devono stare a casa, le donne devono farsi desiderare, le donne devono stare in cucina, le donne devono sapere Umberto Veronesi, che è un libro di Veronesi sul tumore, ma arriva ultimo. Subito dopo viene le donne devono essere sottomesse. Quindi questo, con un margine secondo me statistico accettabile, è quello che gli italiani pensano quando vanno a cercare in internet ciò che debbano fare le donne. Guardate, non è meglio se io faccio e cerco quello che le donne non devono fare. Le donne non devono essere capite, le donne non devono lavorare, le donne non devono essere capite ma amate. Guardate che ipocrisia, non le voglio capire ma devo amarle. È inutile capirle perché sono come delle bestioline, loro non hanno razionalità, vanno solo a essere amate, come i cucciolotti, come i gattini. Le donne non devono leggere, questa è una teoria molto impugnata da molti pensatori, le donne non devono leggere, non devono studiare, perché devono fare i figli. Le donne non devono fare i lavori in casa, questa è l'ultima cosa, perché evidentemente qualcuno pensa che se fanno i lavori in casa si rovinano le mani e quindi non sono sufficientemente adeguate a avere quel ruolo di dolce, carezzevoli ancelle come appunto degli angeli della casa. Io vi ho letto un decalogo che è tratto da un infame libretto stampato in Sud America probabilmente negli anni 30, ma evidentemente è quello che tuttora gli italiani vogliono. Volete sapere la chiave di lettura e tecnica di come funziona questa sorta di funzione dell'autoriempimento del motore di ricerca di Google? Ve lo dico fra un istante, dopo le informazioni del traffico. Melog, cronache meridiane. Leggo qualche sms che mi è arrivato dopo questa fantastica rivelazione sul profondo, sincero sentimento che hanno gli italiani riguardo al problema della discriminazione sessuale e di genere. Grazie Radio 24, sono immigrato, ma ascolto sempre la vostra trasmissione, educazione, informazione, divertimento. Questa mattina, secondo questo signore, abbiamo fatto radio di servizio. Queste regole valgono anche per me, che questa settimana faccio il mammo mentre mia moglie lavora, chiede un uomo disperato. Buongiorno, la donna deve fare tutto questo e deve comportarsi come una gatta in amore, scrive un altro ascoltatore. Cioè, la gatta in amore non sa esattamente l'ascoltatore cosa faccia, la gatta in amore diciamo si comporta come maniera che nessun uomo penso voglia che la propria moglie si comporti. Comunque andiamo avanti. Grande Nicoletti, mio cugino ha sposato una donna giapponese che per cultura è molto d'accordo con questo che ho letto io, poi dovrebbero tagliare pure le unghie dei piedi, dice un altro signore che naturalmente va oltre quello che abbiamo detto. Come ho detto, questa che sembra una provocazione, ho letto un decalogo infame che gira in rete, non si sa bene se sia un fake o se sia realmente qualcosa che appartiene a una cultura realmente concreta, è esattamente corrispondente a ciò che viene fuori con il sistema, con la funzione di autoriempimento, di autocompletamento del motore di ricerca di Google. E vorrei saperne di più su questa funzione. Avvocato Andrea Palumbo, buongiorno. Buongiorno. L'avvocato Andrea Palumbo si occupa di diritto e di informatica. Esiste nella branca della sua disciplina una forma di contenzioso legata proprio a questa funzione dell'autocompletamento di Google? Sì, assolutamente. Ed è proprio recentissima la questione attualissima, soprattutto perché i sistemi di autocompletamento, che lo specifico, non sono implementati solo sul motore di ricerca Google, ma anche su tutti i motori di ricerca di ultima generazione, hanno causato negli ultimi periodi una lesione a soggetti che hanno visto il proprio nome accostato suggerimenti da parte del motore di ricerca che erano offensivi o che rappresentavano situazioni non vere. Diciamo, danno corpo a tutto ciò che c'è di leggendario rispetto ad esempio ai personaggi noti, e questo probabilmente non dà molto piacere. Io faccio un esempio: se io faccio sono un architetto, viene fuori sono un architetto fallito, sono un architetto senza lavoro, sono un architetto e cerco lavoro, o se sono un avvocato, visto che è il suo campo, sono un avvocato e cerco lavoro, sono un avvocato disoccupato, sono un avvocato fallito. Come si spiega questo? Allora, tecnicamente il sistema di autocompletamento funziona sulla base di delle ricerche maggiormente effettuate dagli internauti. Il motore di ricerca si basa sostanzialmente su un algoritmo di cui però non è mai stato chiarito effettivamente il funzionamento, quindi questo è un po' un punto oscuro. Dall'altro lato è chiaro che si basa su parametri statistici questo sistema di autocompletamento e l'algoritmo che ne è alla base. Ma secondo lei ha un valore reale? Cioè, realmente rivela il pensiero nascosto della popolazione? Vedere quello che è stato il maggior numero di ricerche. Io ho fatto l'esperimento questa mattina con il più bieco maschilismo possibile, però in realtà l'algoritmo, strumento della perfezione digitale, l'epoca in cui viviamo, dice che gli uomini la penserebbero esattamente come questa sorta di pamphlet antifemminista di qualche anno fa. No, assolutamente non rappresenta nessun parametro di verità, anche perché si può pensare che il soggetto che effettua delle ricerche di un certo tipo sia magari un soggetto che effettua compulsivamente determinate ricerche che quindi incidono gravemente su questa statistica, mentre il soggetto che non si pone neanche il problema non effettua mai una ricerca di questo tipo e quindi questa non rileva ai fini dell'autocompletamento. Quindi va a pescare nel peggio dell'umanità? Sì, assolutamente. Vedo anche, se uno digita Gesù, la domanda è: Gesù è esistito? Gesù è Dio? Gesù è esistito veramente? Gesù è un alieno? Quindi sono coloro che si pongono dei dubbi e non vivono illuminati dalla certezza che vanno a fare questo tipo di ricerche. Sì, poi anche relativamente ai personaggi famosi sono i soggetti che fanno ricerche particolari, che quindi incidono sulla statistica, non certi soggetti che sono assolutamente disinteressati agli aspetti del gossip. Ma io potrei fare... Per paradosso, una causa a Google perché tutti cercano l'idea di chi sia mia moglie. E dico, ma che vi importa a voi chi è mia moglie? La causa si potrebbe fare, sono state anche fatte anche recentissimamente, sia in Italia che in Europa. Gli orientamenti della giurisprudenza sono contrastanti, è un problema attualissimo, perché alcuni giudici, banalizzando, ritengono che il sistema di autocompletamento sia un sistema che propone contenuti elaborati da Google e per questo lui ne sia responsabile ed eventuali illeciti. Quindi diciamo, i movimenti femminili del mondo potrebbero dire a Google: tu stai instillando un credo maschilista, dando credito a queste punti di vista, che le donne debbano stare a casa, fare le gatte, le geishe e via dicendo. Secondo questo orientamento sì, però ce n'è anche un altro, ed è quello poi sostenuto dai motori di ricerca, secondo cui loro agiscono in modo automatico e neutrale e ripropongono solamente quello che terzi hanno inserito nel motore di ricerca e pertanto non ne sono responsabili. Sì, oddio, il paradosso è che uno dei più nostri, non voglio coinvolgerlo ancora di persona, cantanti italiani, se uno lo cerca viene subito fuori delle detestabili leggende metropolitane su sue abitudini alimentari che non hanno fatto con il patrimonio che ha dato alla canzone italiana. Claudia, sentiamo Claudia, buongiorno. Buongiorno. Ma io appunto ho percepito subito che la sua era una provocazione. Una provocazione. Perché? Non posso pensarlo. Ma sì che può pensarlo, ma nel fondo forse lo pensa veramente. Certo, ecco, ma io lo dico anche nel fondo, anche in superficie. Cioè, a me piacerebbe, onestamente, sono civilizzato, ma mi piacerebbe tornare a casa e trovare una serie di odalische che mi fanno vento e si occupano appunto di me, ma mica non ci prendiamo in giro, però la civilizzazione ci dice che non è giusto che esista questo, perché a lei non piacerebbe tornare a casa e trovare 50 uomini muscolosi pronti a disposizione di ogni suo desiderio, ma tutti piacerebbe, no? Ma so, dove 5. Sono, ma... Che dobbiamo frustrarci i desideri, almeno i desideri esprimiamoli, poi diciamo siamo civilizzati, diamo una collocazione adeguata al tempo in cui viviamo ai nostri desideri. La vita è molto più complicata, ecco. Sì, è proprio per questo, perché è complicata, uno può permettersi di esprimere un desiderio ad alta voce. Sentiamo, sì, Chiara. Sì. Chiara. Sì, salve. Io vorrei dare una mia esperienza personale a tutto questo. Sì. Io ho lavorato fino ad un mese fa, facevo due lavori, lavoravo da lunedì alla domenica ininterrottamente fino alle 8 di sera. Tornavo a casa, preparavo da mangiare, pulivo. Però poi ad un certo punto io non... Beh, era giustamente realizzata, avrà fatto la felicità del suo uomo. Certo, ma soprattutto sì, più o meno, nel senso che... Beh, giusto, sarà compensata di questo, sì, nel regno dei cieli. A un certo punto però ho dovuto mollare io. Cioè ha mollato il lavoro e si è messa a tempo pieno? Uno dei lavori, sì, uno dei due lavori. E adesso finalmente a tempo pieno a disposizione del suo uomo, penso. Faccio un lavoro comunque, sì, prendo meno dello stipendio che prendevo prima, però a un certo punto sono tornata a casa, il mio fidanzato mi fa: sono contento che tu sia a casa perché almeno c'è la casa pulita in ordine, mi sembra giusto. Ad un orario decente. E non si sente gratificata dal fidanzato, finalmente sì, le ha reso sì, giustizia. Sì. Ma anche a livello mio personale, vedermi la casa sporca, non potermi nemmeno sedere sul divano un'ora. Pensi che bello che adesso ha tutta la giornata a disposizione, può dare lo straccio, un giorno pulire i vetri, un giorno pulire a fondo il bagno. Lavoro, faccio comunque il mio lavoro. Ci pensi bene, perché diciamo che questa soddisfazione richiederebbe un impegno molto più profondo. E come dice anche il motore di ricerca Google, la donna è giusto che stia in cucina. Ci sentiamo domani.